Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Esiste una città dove fino a poco tempo fa gli abitanti, quando si incontrano, per prima cosa si guardano i piedi, perché avere delle scarpe o delle altre scarpe denota un'appartenenza quasi a una casta, vuol dire da dove vieni e a chi appartieni. La città in questione si chiama Herzogenaurach, che è sulle rive del fiume Aurach in Baviera, un paese di 20.000 anime dove si trovano due delle più importanti aziende di scarpe sportive, e non solo di scarpe, del mondo, l'Adidas e la Puma. Bene, l'Adidas e la Puma sono state fondate dai nostri protagonisti di oggi, i due fratelli Adolf e Rudolf Dassler. È una delle storie più incredibili che il falco e il gabbiano abbia mai raccontato. Due fratelli, stesso sangue, eppure due persone che si sono detestate in maniera anche feroce per la maggior parte della loro esistenza, e la loro rivalità ha diviso in due l'intera città, perché questo ha voluto dire due fabbriche, due squadre di calcio, locali diversi, quelli dove andavano solo i dipendenti di una ditta, cioè l'Adidas, e quelli frequentati dai dipendenti dell'altra, la Puma. Era perfino impossibile che ci si sposasse tra fazioni avverse, peggio dei Montecchi e dei Capuleti. Eppure le cose ovviamente erano iniziate in maniera ben diversa. Nonostante avessero caratteri molto diversi, fino al momento della rottura i due fratelli andavano abbastanza d'accordo. E questo era Helmut Fischer, che per 40 anni è stato uno dei maggiori collaboratori della Puma. Di certo prima delle due società esisteva un'unica azienda, la fabbrica di scarpe dei fratelli Dassler. Fu fondata inizialmente dal più piccolo dei due, Adolf, che era nato nel 900, tornato dalla Grande Guerra aveva deciso di mettersi a fare scarpe come il padre, che era un ciabattino, e in realtà quella è una zona di ciabattini, solo che Adolf ha un vero e proprio talento per le scarpe. Attenzione, gli amici lo chiamano già Adi, e questo mettetela lì, perché poi vi servirà questa nozione. Il primo luogo di lavoro è nel locale lavanderia della madre. Quando salta la luce c'è una specie di bicicletta che produce energia alternativa. Non è raro vedere Adolf che pedala mentre assembla le sue scarpe. Che tipo fosse questo Adi ce lo racconta Karl-Heinz Lang, uno degli storici impiegati dell'Adidas. Adi era una persona tranquilla, con i piedi per terra, abbastanza introverso. Però quando lavorava si animava tutto. Senza dubbio il suo carattere era diverso da quello di Rudy. E Rudy è Rudolf, il fratello maggiore di Adi, era nato due anni prima. Tanto Adi è discreto e creativo, quanto Rudolf, Rudy, è estroverso e pragmatico, un venditore, gli piace avere a che fare con la gente, con le donne, ha fama di essere un seduttore, insomma è molto diverso dal fratello minore. Però è l'uomo che ci vuole quando le creazioni di Adi vengono apprezzate anche fuori dalle mura e cominciano a fioccare le richieste. Bisogna creare una società più strutturata, bisogna lanciarsi nel business vero e proprio. Così nel 23 Rudolf si unisce al fratello e nel 24 nasce la fabbrica di scarpe dei fratelli Dassler, Gebrüder Dassler Schuhfabrik, e è l'inizio della loro avventura. Però il diverso carattere di Rudy è una delle ragioni per cui, in qualche modo, almeno inizialmente, l'organizzazione dell'azienda sembra funzionare, almeno secondo la cognata di Rudy, Betty. Aveva il dono della parola. Quando si trattava di fare affari, nessuno viene a cercarti. Sei tu che ti devi far conoscere, e questa era la specialità di mio cognato. Costruirono l'azienda con l'idea che lui si sarebbe preoccupato della parte commerciale, mentre il fratello avrebbe pensato alla parte tecnica. In effetti, quando due caratteri diversi e quindi complementari lavorano assieme, le cose dovrebbero funzionare bene, perché ognuno ha il suo compito. È il caso di questa azienda, perché Adi resta in fabbrica a disegnare e a produrre le scarpe, mentre Rudy se ne va in giro per trovare clienti a cui vendere il prodotto. E secondo il nipote Frank Dassler, l'unico dei Dassler che ancora oggi ricopre un ruolo nell'azienda di famiglia, che ormai è di proprietà multinazionale, Rudy non era solo un simpatico venditore, ma era anche una persona che sapeva bene il fatto suo. Era un personaggio molto autorevole, uno che non aveva paura ad alzare la voce. Lo ricordo come una persona importante. Fumava sempre la pipa o il sigaro. A suo modo, era molto autoritario. Insomma, l'azienda fondata da Adolf e Rudolf Dassler continua a espandersi nonostante i fratelli abbiano caratteri così diversi, ma la condivisione degli affari non riesce a nascondere la competitività che da sempre esiste tra i due fratelli. C'era sempre stata una certa rivalità tra i due fratelli, soprattutto nelle competizioni sportive, quando Adi cercava sempre di vincere su Rudolf. E col tempo questa rivalità travalica lo sport, si allarga a macchia d'olio tra gli ingranaggi della fabbrica, man mano che questa diventa una cosa grossa, man mano che si espande e precipita, quando a ingrandirsi è la famiglia. Eh sì, perché arrivano le mogli e qui crolla tutto. Il primo a sposarsi è Rudolf, che si unisce a Friedel, una donna solida, rispettosa delle tradizioni familiari. Friedel di solito lavorava tutti i giorni, anche la domenica, una vera virago. Teneva lei i libri contabili. Mia sorella si adattò perfettamente all'azienda di famiglia. E poco dopo si sposa anche Adolf e si sposa con una ragazza di nome Keta, dal carattere molto diverso. Io me la immagino anche molto più carina, magari sbaglio, ma così a naso. Perché questa invece è una donna decisamente più brillante, ma insomma, a complicare le cose, i fratelli con mogli, figli e genitori si trasferiscono tutti in una nuova grande casa. Bisogna convivere e questo non è una cosa facile. Quando arrivò, Keta si rifiutò di adattarsi. Aveva solo 17 anni quando si sposò, ma già sapeva cosa voleva e fece a modo suo. Insomma, in questo caso tutto quello che gli uomini hanno costruito viene smontato pezzo per pezzo dalle loro mogli. Le spose dei fratelli Dassler finiscono per dare l'ultima spinta verso una direzione poco piacevole per l'azienda. Il falco e il gabbiano. Solo 2 anni dopo aver fondato la loro fabbrica di scarpe, i fratelli Adi e Rudi Dassler sono già nella prospettiva di dover ingrandire la ditta. Si trasferiscono dall'altra parte del fiume Aurach, nella parte della loro cittadina dove c'è più spazio. Le cose stanno andando bene, le vendite migliorano, soprattutto da quando il nazionalsocialismo di Adolf Hitler è salito al potere. Ovviamente un'azienda come quella dei fratelli Dassler trasse un grande beneficio dal sostegno che il governo dava allo sport. Per il governo era una maniera per avvicinare i giovani al nazionalsocialismo. Che sia per opportunità commerciale o per vera e propria passione politica, sta di fatto che entrambi i fratelli si iscrivono al partito nazista e i nazisti ricambiano acquistando grandi quantità di scarpette ginniche. E abbiamo tutti presente le foto, i documentari dell'epoca in cui i giovani tedeschi corrono, saltano, nuotano, lanciano il giavellotto durante le adunate del partito. Insomma, il nazismo punta molto sul benessere fisico e sulla forma fisica e quindi ci vogliono delle scarpe e le fanno loro, i fratelli Dassler, anche se il loro amore per la politica è palesemente, insomma, molto meno spiccato rispetto all'amore per gli affari. Lo si capisce per esempio quando a Berlino arrivano le famose Olimpiadi del 36. 100 meter Ausscheidungsläufe. Amerikas schnellster Läufer Jesse Owens ist am Start. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Osenberg kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieber im 100 Meter Lauf. Quello che avete appena sentito era l'audio originale della gara dei 100 metri e Jesse Owens, l'atleta statunitense nero, vince alla grande alla faccia delle aspettative di Hitler. Anche l'entusiasmo del radiocronista alla partenza, avete notato come vada a scemare mano a mano che Owens si avvicina alla vittoria. Eh sì, però le scarpe che indossa Jesse Owens, quello che ha umiliato Hitler nel suo stadio sono della ditta Dassler. In barba a tutti i valori nazionalisti, Adi e Rudy hanno capito che il Jesse Owens è meglio che abbia ai piedi le loro scarpe. Ce la fanno e Owens vince 4 ori con le scarpe create da Adi. Solo in seguito si accorsero dell'incredibile fortuna che avevano avuto. Jesse Owens aveva vinto l'oro indossando le loro scarpe. Questo diede un grande impulso alla vendita delle scarpe e lo scrissero anche nella loro pubblicità aziendale. Dopo la gloria internazionale ottenuta grazie a Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino, le scarpe Dassler cominciano a diventare famose anche fuori dalla Germania e gli affari vanno benissimo e coi soldi iniziano ad arrivare anche i primi problemi, perché cominciano a riemergere vecchie gelosie, antichi rancori, invidie, un senso di ingiustizia diffuso, nessuno che è mai contento, e in mezzo a tutto questo ci si mette anche un fattore non certo irrilevante, perché scoppia la guerra e vengono richiamati anche i fratelli Dassler. I fratelli vennero reclutati una seconda volta nonostante entrambi avessero oltre 40 anni, ma dopo un anno Adi fu rimandato a casa per occuparsi dell'azienda. A Rudy invece le cose non vanno così bene, perché viene mandato al fronte e non è che la cosa faccia molto piacere, così cerca addirittura di far chiudere la fabbrica per costringere a tornare al fronte anche il fratello Adi. Però al partito servono le scarpe e quindi la fabbrica non può chiudere, e le cose già un po' compromesse peggiorano durante un attacco aereo, quando le due famiglie si trovano assieme nel rifugio dopo l'allarme. Sentiamo il racconto della cognata di Rudy. Adolf camminava su e giù nel rifugio continuando a dire: sono di nuovo qui, quei porci. Mia sorella e mia nonna, che era anche presente, pensarono che si stesse riferendo a loro, ma non era vero. Adolf non avrebbe mai voluto dire una cosa del genere. Continuai a dire a mia sorella, mia nonna e a tutti gli altri che Adolf non intendeva noi, ma che si stava riferendo alle bombe alleate, ma loro continuavano a dire: no, parla di noi. E qui salta un po' il tappo della bottiglia. Noi non sapremo mai se la frase pronunciata da Adolf fosse intesa contro i parenti o contro gli americani, ma si apre un baratro, perché anni di rancori si coagulano in quell'unica frase. Insomma, tutto esplode e le cose non si fermano qui. Keta si sedette accanto a me e tirò tutto fuori su quello che lei e suo marito avevano dovuto sopportare tutti quegli anni da parte di Rudolf. Prima che si sposasse, Adolf aveva lasciato che Rudolf prendesse tutte le decisioni. Devo dire che mio cognato poteva essere un vero despota, ma non era tipo da portare rancore. Adolf invece era uno che si lamentava con la moglie e ovviamente le sue parole cadevano su un terreno fertile. Insomma, forse Adolf non intendeva essere offensivo con la famiglia del fratello, però certo, insieme alla moglie Keta, sta cogliendo l'occasione per pensare a un vero e proprio distacco, anche perché con gli anni Keta sta rivelando qualità insospettate. Adolf non sarebbe mai stato in grado di mettere su un'azienda da solo. Quella fu un'idea di Keta. Era lei il motore dell'azienda. Quando si trattava di affari, Keta e Rudolf erano fatti della stessa pasta. Il falco e il gabbiano. Chiunque di voi si sia trovato in qualche negozio a dover scegliere magari tra un paio di scarpe Adidas e Puma, forse non sapeva che in qualche modo stava entrando in una disputa familiare che è durata decine e decine di anni. E sì, perché Adolf e Rudolf Dassler, i protagonisti della nostra storia, sono i fondatori, uno dell'Adidas e l'altro della Puma, però sono due fratelli con due aziende, con due filosofie, che hanno spaccato a metà una cittadina tedesca che si chiama Herzogenaurach, dove gli abitanti si sono trovati coinvolti in una faida che si è protratta a lungo, che ha diviso le famiglie peggio che in un dramma di Shakespeare. dopo aver iniziato lavorando insieme gomito a gomito, con anche una certa ripartizione dei compiti, uno più creativo e l'altro più commerciale, Adi e Rudy hanno cominciato a allontanarsi, divisi da differenze caratteriali, e poi il denaro che inizia a entrare copiosamente nelle casse dell'azienda familiare, e poi i problemi che arrivano, che vengono ingigantiti dalla guerra, Adi che viene rimandato a casa perché è necessario all'azienda, il fratello che viene spedito in Polonia in attesa di raggiungere il fronte russo, e poi il fratello che diserta, va a casa, si fa dichiarare incompatibile col servizio militare, viene arrestato dalla Gestapo per diserzione, la fa franca, ma poco dopo, con la fine della guerra, viene arrestato di nuovo dagli alleati. E in quel clima di angoscia, di sospetto che alleggia sulla ex Germania nazista, che è andata incontro alla rovina, alla disfatta, allo sfregio da parte dell'Europa, questo nuovo arresto viene interpretato nel peggiore dei modi. Nel campo di prigionia gli americani dissero a Rudy che qualcuno dei suoi parenti l'aveva denunciato. Ovviamente il suo primo pensiero andò al fratello, che voleva impossessarsi dell'azienda, che a questo punto era stata ricostruita. E questo, per usare un eufemismo, lo fece molto arrabbiare. Peraltro gli alleati sono convinti che Rudy sia un informatore della Gestapo, anche se era stato prigioniero proprio della polizia tedesca, e insomma questo secondo arresto scava un fossato tra le due famiglie che ormai è insuperabile, anche perché pare che in alcune delle trascrizioni degli interrogatori fatti dagli americani siano stati proprio Keta e Adi ad accusare Rudy. Circolavano voci sul fatto che Rudolf fosse nella Gestapo, ma lui ha sempre negato. Ma la distanza tra le due famiglie crebbe col tempo e un giorno decisero semplicemente di andare ognuno per la propria strada. Rudolf trascorre un anno in un campo di concentramento americano. La cosa paradossale è che mentre lui è in mano agli americani, Adi inizia a fare affari proprio con i suoi carcerieri, cioè a fare affari con gli americani. E questo però si rivela l'asso nella manica della società. Prima di tutto, per l'azienda voleva dire ricevere ordinazioni, il che significava riuscire a sopravvivere in quel difficilissimo periodo alla fine della guerra, e poi che poteva trovare il materiale da lavorare. Ma soprattutto significava acquisire nuova esperienza su quegli sport americani che noi non conoscevamo, come il baseball o il football americano. Quindi alla fine fu un buon periodo per l'azienda. Forte della fama acquisita grazie a Jesse Owens, che aveva vinto le Olimpiadi con le scarpe da hustler, e il marchio comincia a vendere anche negli Stati Uniti, si risolleva dai danni della guerra. Ma al ritorno di Rudy dal campo di prigionia, la tensione esplode. Di fronte alla commissione di denazificazione, Rudy fa il possibile per far apparire il fratello come uno di quelli che hanno approfittato della guerra per il proprio tornaconto, il che significherebbe l'espulsione di Adi e la possibilità per Rudy di prendere il controllo dell'azienda. Insomma, una guerra senza esclusione di colpi. Ma quando Adi viene giudicato un semplice seguace del nazismo, insomma non rischia di perdere l'azienda, il destino dei due è segnato. Rudy porta la famiglia e la madre che sta dalla sua parte in un'altra casa, e con Adi iniziano a dividersi l'azienda. Un giorno Rudolf ci fece riunire tutti. Ci dissero che avevano deciso di andare ognuno per la propria strada. Disse anche che stava a noi decidere con chi lavorare in futuro e di dirlo apertamente, e che nessuno dei due fratelli si sarebbe offeso per la nostra decisione. Uno degli impiegati della ditta Dassler ricorda il giorno in cui tutto si decise. In realtà il processo di separazione durò un anno e mezzo. Non è semplice dividere una società che ormai sta per diventare a tutti gli effetti una multinazionale. Bisogna trovare intanto il nome giusto per le due ditte novelle. Adi decide di utilizzare il suo nomignolo e di unirlo alle prime lettere del cognome, quindi Adi Das. Rudolf fa più o meno la stessa cosa, costruisce il nome Ruda, solo che si rende conto che è un nome che ha ben poco di atletico, lo trasforma in Puma. Puma, in onore del felino caro ai Pelle Rosse. Ebbi la sensazione che entrambi fossero felici della decisione. Una volta in ufficio il boss ci disse: finalmente siamo per conto nostro e potremo dimostrare a tutti di cosa siamo capaci. Le cose da dimostrare sono tante. Intanto bisogna vedere da quale dei due fratelli i clienti decideranno di continuare a servirsi, visto che la maggior parte della forza vendita dell'azienda segue Rudy. Tutti pensano che la Puma possa riuscire a accaparrarsi la maggior parte della clientela, ma questo non avviene perché, pur essendo un tecnico per anni, Adi ha battuto i campi di allenamento di mezza Germania, si è costruito la reputazione di un tecnico affidabile e preparato, e queste sono qualità che al momento di decidere quali siano le scarpe migliori sul mercato vengono ricordate da tutti. Per questa ragione in breve tempo l'Adidas consolida il proprio marchio, riuscendo a varcare anche i confini nazionali, cosa che la Puma per il momento non riesce a fare, e per un po' l'azienda di Rudy mantiene una crescita stabile ma limitata. Col passare del tempo però le due aziende arrivano comunque a diventare le leader del mercato e vanno avanti fino agli anni 70, fino a quando arrivano altri competitor, Nike e Reebok per esempio, competitor che cominciano a intaccare il loro predominio. Il grande errore delle due aziende tedesche è quello di non avere preso in considerazione il crescente successo del jogging e della suola cosiddetta waffle inventata dalla Nike, perdendo così una larga fetta di mercato. Però intanto Adi e Rudy stanno invecchiando, gli affari passano in mano ai figli, che sono Horst e Armin, però non cambiano le cose. A volte ci sono brevi periodi di non belligeranza, tra l'altro il più importante tra questi periodi ce lo racconta la scrittrice Barbara Smith, che ha a lungo studiato la storia della famiglia Dassler. Nonostante questa intensa rivalità, a volte i capi attraversavano il fiume e ogni volta che questo accadeva era per arginare le richieste dei calciatori. Quindi facevano dei piccoli accordi, soprattutto nei confronti delle squadre e dei calciatori tedeschi. E in un'occasione nello specifico, nei confronti di un uomo molto particolare, fecero una specie di accordo pacifico chiamato il Patto Pelé. Eh sì, perché Pelé è il calciatore più forte del momento, forse di sempre, comunque un'immagine principe del calcio, e di fronte al costo di un'operazione di marketing i due cugini decidono di comune accordo di sottoscrivere una specie di patto di non belligeranza. Pelé era un giocatore che valeva un prezzo che nessuno avrebbe potuto sostenere, considerando il suo talento senza paragoni. Se le due aziende avessero iniziato a competere finanziariamente per Pelé, ognuno avrebbe dovuto mettere in conto una somma enorme di denaro. Quindi arrivarono a un tacito accordo che nessuna delle due lo avrebbe contattato. E poi, però, uno dei due cugini frega l'altro, e questa volta è Armin, il figlio di Rudolf, che si presenta da Pelé con una valigetta con dentro $125,000 in contanti, che per quell'epoca erano dei bei soldi, e lo convince a firmare un contratto con la Puma. Ce lo racconta il figlio Georg. A un certo punto uscì fuori che Pelé aveva ricevuto dei soldi. Questo diede luogo a delle brutte scenate tra mio padre, Armin e Horst Dassler. Insomma, le relazioni tra i due cugini sono in perfetto stile Dassler, e tutto questo va avanti attraverso le generazioni. E insoddisfatto dalle innovazioni apportate dal figlio, intanto Adi vorrebbe diseredare Horst. Dall'altra parte del fiume anche la relazione tra Rudy e Armin non brilla, perché Rudy sminuisce continuamente Armin di fronte al consiglio di amministrazione e prova anche lui a estromettere il figlio dal suo testamento. Insomma, sembra una maledizione familiare. Ma nel frattempo passano gli anni e Rudy si ammala, si sente prossimo alla fine ed esprime un ultimo sorprendente desiderio. Volle vedere il fratello per un'ultima volta prima di morire. Quindi Armin andò da Adi a chiedergli se avesse voluto esaudire il desiderio del padre. Adi tentenna, ma alla fine lascia che sia il fratello a morire da solo. Pochi anni dopo, quando è il turno di Adi di lasciare il mondo, la famiglia fa preparare la tomba nell'angolo di cimitero più lontano da quello dove riposa Rudy, separati per sempre anche nella morte, anche nel loro piccolo paese di Herzogenaurach. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto, che hanno fatto cose che hanno lasciato il segno. E poi ci sono storie incredibili nelle quali si vola in alto e si vola in basso e ci si divide tra fratelli, dando vita a una guerra che diventa epocale. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, può rialzarsi, ma può anche dar vita a vicende incredibili come quella che abbiamo appena raccontato. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.